Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento del sabato. Come sapete, siamo in onda sia il sabato sia la domenica per sfogliare le riviste, i settimanali, i mensili italiani e non italiani alla ricerca di articoli interessanti, anche di qualche curiosità, qualche volta qualcosa anche di divertente. Comincia il fine settimana, sta cominciando ufficialmente il fine settimana e allora io vorrei cominciarlo con qualcosa che ci fa sorridere. Mi ha fatto sorridere questa settimana la rubrica di Geppi Cucciari, attrice comica molto popolare peraltro, perché ha una rubrica fissa appunto nelle prime pagine di Donna Moderna e questa volta ha scelto di occuparsi del fine settimana. La sua descrizione breve è molto divertente perché credo molti di noi si riconosceranno nelle parole appunto scritte dalla Cucciari. Dice: il fine settimana è il momento in cui le coppie hanno modo di spendere del tempo insieme. Questo effettivamente è vero. Dopo 5 giorni trascorsi incrociandosi in corridoio tra le 6:45 e le 7:30, con sbrigativi incontri nelle vicinanze del bagno, ambiente in cui sempre più spesso anche l'altra metà bivacca, dedicandosi alla cura di sé in stile tolettatura da barboncino, dopo i 3 minuti di conversazione in cucina, in cui ci si ricorda chi deve portare quale figlio a quale attività ginnica, arriva finalmente il meritato tempo comune. Molte coppie però, scrive la Cucciari, hanno idee diverse su come impiegarlo e qui anche come darle torto. Lui vuole dormire fino alle 13, lei deve riordinare, pulire, areare le stanze, stirare, candeggiare, spostare i mobili, sbattere i tappeti, soppalcare il bagno, fare un salto al centro commerciale. Allora capita che il sabato, tra le 8 e le 9, quindi proprio adesso mentre noi stiamo parlando, si verifichino piccoli incidenti a sfondo acustico. Un'anta dell'armadio sbatte, la finestra della cucina si chiude all'improvviso. Lui apre gli occhi spaventato, urla: che c'è? Oh, mi spiace, ti ho svegliato. La perfida domanda che segue all'esplosione organizzata con una bomba carta sul suo comodino. Lui mugugna: vabbè, prosegue la tentatrice, visto che sei sveglio, ti va di andare in lavanderia? Abbiamo cominciato con qualcosa di divertente, di rilassante in qualche modo, questo contributo di Geppi Cucciari su Donna Moderna. Restiamo, come dire, in tema di donne, in tema femminile, cambiamo però rivista, prendiamo Famiglia Cristiana di questa settimana, che si occupa delle donne in televisione. In realtà si occupa di diversi aspetti delle donne. Come sapete, Famiglia Cristiana da qualche mese, avendo avviato un restyling abbastanza importante della rivista, dà molta enfasi proprio ai temi, diciamo, della vita quotidiana di coppia e di famiglia. Ad esempio, riferisce nelle sue pagine iniziali della mancanza di pari opportunità in televisione proprio per quanto riguarda le donne. In televisione si parla di donne, certo, ma solo o quasi se si parla di moda o di sesso, di spettacolo o di bellezza. Poco o nulla se si tratta di impegno sociale. È una denuncia che viene da un'associazione che si chiama Appello Donne e Media, promossa da Gabriella Cims, che propone 11 emendamenti al contratto di servizio pubblico in discussione adesso in commissione di vigilanza. Questo naturalmente riguarderebbe però solo la RAI, perché la RAI appunto si impegna a rappresentare un'immagine della donna che corrisponda alla realtà. Qual è questa immagine, appunto, questa, diciamo, distanza tra l'immagine della donna e l'immagine che ne dà la televisione? Le donne aspirano, riferiscono una serie di numeri che corredano questo articolo, a affermazione della libertà individuale nell'80% dei casi delle donne sentite per un sondaggio appunto che correda l'articolo di Giulia Cerqueti, per il 66% delle risposte alla realizzazione professionale. Il 56% delle risposte è stato invece indirizzato all'autonomia economica, tutti valori, come vedete, molto alti e importanti. In televisione, peraltro, le donne per il 53% dei casi, secondo dei dati Censis, non hanno voce. Per il 43% dei casi, quando la televisione parla di donne, appunto parla di moda, di sesso, di spettacolo o di bellezza. Quando la televisione associa le donne all'impegno sociale, beh, un po' pochino, dice il Censis, perché si tratterebbe solo del 2% dei casi. Non è allora forse così sorprendente, continuando a sfogliare Famiglia Cristiana, trovare un'inchiesta firmata da più colleghe, Orsola Vetri, Giulia Cerqueti e Maria Gallelli, che si occupano del rifiuto della maternità, o comunque del rinvio molto in là negli anni della maternità. Figli no grazie è il titolo dell'inchiesta, viene spiegato così: questo titolo, stanno aumentando le donne italiane che rinunciano alla maternità. Alcune hanno continuato a rimandare e ora non sono più fertili, altre hanno fatto una scelta precisa che può avere motivazioni diverse, economiche, sociali o affettive, e a volte di carriera. Abbiamo dei numeri, abbiamo modo di misurare questa disaffezione in qualche modo delle donne italiane nei confronti della maternità? Qualche cosa le colleghe hanno trovato e segnalano su Famiglia Cristiana. Il 10% delle donne italiane, era solo il 10% la percentuale di donne italiane che nate alla fine degli anni 50 non ha avuto figli. Nella generazione nata nel 66 si passa al 20% circa. Nel 2003 le donne italiane che tra i 20 e i 30 anni affermavano di non voler diventare madri erano il 6%. Quasi il 9% delle coppie italiane tra 34 e 44 anni non hanno figli, quindi una coppia su 10. E se andiamo all'estero, il nostro dato italiano risulta quasi ottimista, perché risultano un 21% di donne inglesi nate attorno agli anni 60, quindi l'epoca del baby boom, come si dice, che non hanno avuto figli. Anche in Germania sono il 20%, nei Paesi Bassi il 18%. Decisamente di meno in Spagna e in Francia, l'11%, in Portogallo il 7%. Tra l'altro, le colleghe segnalano che gli inglesi hanno due parole per definire questa mancanza di maternità: l'una, appunto, per definire la mancanza di tipo volontario, e l'altra quella di tipo, diciamo così, involontario. La prima parola, childless, cioè senza figli letteralmente, ci si riferisce a una mancanza e riguarda coloro che hanno subito la privazione della maternità. C'è un'altra parola però che è child free, cioè libero da figli, si potrebbe tradurre con una certa libertà, appunto. Si fa riferimento alla libera scelta di non mettere al mondo un figlio. In italiano, come sappiamo, non esiste una parola per indicare queste diverse situazioni, una sorta di pudore forse avvolge ancora la questione. C'è un'intervista, ci sono delle dichiarazioni a diversi esperti che si occupano di queste materie, quindi maternità, famiglia, anche supporti sociali, perché poi è anche un problema naturalmente poter conciliare il lavoro o le proprie aspirazioni personali con la nascita dei figli. Giancarlo Biangiardo, che è professore al Dipartimento di Statistica dell'Università Milano Bicocca, innanzitutto dà una dimensione numerica, dice: alla domanda riguardante l'idea di avere un primo figlio 20 o 30 anni fa, rispondeva positivamente l'80 o anche l'85% delle donne nate quindi intorno agli anni 50. 10 anni dopo, cioè se passiamo alle nate attorno agli anni 60, coloro che pensavano di diventare madri sono diventate poco meno del 70%. Quindi nell'arco di una generazione il desiderio di maternità è diminuito di circa 10 punti percentuali. Maria Letizia Tanturri, un'altra delle persone che sono state sentite dalle colleghe, esperta in demografia, insegna all'Università di Padova, spiega che c'è anche una sorta di rifiuto, come dire, di rinvio, che poi non tiene conto magari delle conseguenze biologiche. Dice: molte donne, più che non volere figli, spiega la Tanturri, rinviano questo momento perché sono convinte che prima di diventare madri si debba ottenere un certo livello di sicurezza economica, lavorativa, affettiva e personale. Così passa il tempo, ma si tratta in realtà di una trappola. Spesso, anche quando si è conquistata con molta fatica questa stabilità, si teme che il figlio possa rompere l'equilibrio, si finisce allora per non decidere più di avere un figlio. Tutto questo, appunto, tutto questo problema, io vi ho letto solo una breve parte di questa inchiesta, che è molto più lunga e che trovate su Famiglia Cristiana di questa settimana, dedicata appunto al calo del desiderio di maternità in Italia. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di un tema molto serio, il desiderio di maternità. la possibilità anche di avere un figlio, possibilità economica, possibilità quindi di mantenere un figlio, un desiderio che abbiamo preso da Famiglia Cristiana, da questa inchiesta di Famiglia Cristiana, è in calo costante, non solo in Italia, diciamo che l'Italia sta raggiungendo le percentuali elevate dei paesi nordici. Restiamo in qualche modo in tema di donne, alleggeriamo direi un momento rispetto al tema molto importante che abbiamo affrontato prima, su 7 che avete trovato da giovedì con il Corriere della Sera. Lina Sotis prende lo spunto da un film di prossima uscita per parlare di un tema un po' di quelli eterni, se la bella ama un uomo qualsiasi, insomma le donne troppo belle e gli uomini normali, assolutamente normali. Lina Sotis scrive: può un ragazzo qualsiasi far perdere la testa a una bomba sexy? Sembra proprio di sì. Per averne una prova basterà il 18 giugno andare a vedere il film Lei è troppo per me. Aspettando di sentire la storia della super sventola che si accontenta felice di un ragazzo qualunque invece di andare alla ricerca del solito super ricco, super inaffidabile, super superfluo, anche se pieno di danari, possiamo fare una riflessione di come va la vita. E qui Lina Sotis appunto ci pone una di quelle domande un po' diciamo eterne che spesso ci facciamo anche tra di noi. Vi siete accorti, scrive, che quasi tutte le ragazze insignificanti, spero che questo insignificante appunto non venga interpretato in malo modo, sono felicemente sposate, mentre tutte le bellone che passano la vita al telefono a smistare i corteggiatori rimangono quasi sempre al palo? Paradossalmente, scrive la Sotis, ha molta più probabilità di avere una vita sentimentalmente felice una bruttina rispetto a una bellona. Questo perché, spiega la Sotis, la vamp non si accontenta, pensa che nessun uomo sia abbastanza per lei, punta sempre più in alto, mentre la sua amichetta scialba, fin da adolescente, pensa a una solida costruzione. Non so quante ascoltatrici vorranno riconoscersi in questa metà dell'universo femminile che viene indicata dalla Sotis, però proseguo assolutamente con spirito cronistico. Dice: guardatevi intorno, osservate le mogli, tutte diverse, tutte uguali, raramente fra loro si annovera la categoria delle bellissime. Quelle sono sempre lì che aspettano una telefonata, sospirano un contratto con la televisione. In Lei è troppo per me, appunto il film da cui prende le mosse la sua rubrica, la protagonista è una signorina che la sa lunga, a cui non va di cambiare continuamente fidanzato, una che cerca un approdo sicuro visto che lei è super dotata. Ma come diceva Proust, le donne troppo belle sono per gli uomini senza fantasia. Si collega idealmente a quanto scrive Lina Sotis su un'altra rubrica che sempre avete trovato su 7, potete trovare su 7, che rimane in edicola con il Corriere della Sera anche in questi giorni. Si tratta anche qui di una segnalazione, stavolta non di un film ma di un libro. Il libro si chiama Vivere da morire, l'autore è Pier Francesco Grasselli e ne parlano su 7 in una rubrica descrivendolo come Cronache di Vallettopoli in formato romanzo. In realtà questo volume mi serve in qualche modo, mi ha incuriosito questa citazione, perché ci sono diversi articoli che parlano invece di un tema ancora più importante di questo, che è appunto le possibilità per i giovani di trovare lavoro, di trovare un'occupazione stabile, una retribuzione decorosa. Ecco, qui si vede un po' invece chi cerca di sfondare in modo così molto drastico, molto veloce. Dice: tanti ragazzi, dice Pier Francesco Grasselli, lo scrittore appunto autore di Vivere da morire, sono attirati dal miraggio della notorietà e del successo facile. Il guaio è che sono del tutto ignari di quanto fatuo e inconsistente sia il mondo dello spettacolo, del vuoto e dell'insoddisfazione che lascia dentro le persone. I giovani si adeguano e finiscono per cadere nella trappola. Quindi il miraggio, diciamo, di una vita da ricchi e famosi, magari appunto grazie a un reality o a qualche momento di celebrità televisiva, viene duramente criticato in questo romanzo di Grasselli. Ma devo dire, la prospettiva reale che ci viene raccontata questa settimana, che ci stanno raccontando in questi giorni i settimanali, non sembra assolutamente esaltante. Ad esempio, sull'Espresso c'è una inchiesta inserita nella rubrica Attualità che Tommaso Cerno e Emiliano Fittipaldi hanno firmato. L'inchiesta si intitola Per un pugno di soldi e si riferisce proprio ai giovani sottopagati in Italia. Paghe da 4 euro l'ora o mensili da 500 per mestieri qualificati e orari pesanti. È l'Italia dei sottopagati, giovani e non solo. Si fa l'esempio di Francesca, 33 anni, di Roma, fa un colloquio per una delle più importanti agenzie che gestiscono le visite guidate nei musei capitolini. Cercavano, racconta Francesca, laureati in storia dell'arte che possibilmente avessero pure un master, capaci di parlare bene almeno una lingua. Un lavoro massacrante, tre visite da un'ora e mezza ogni giorno, spostamenti da una parte all'altra della città, disponibilità sabato e domenica, che significa spesso fare il 7 su 7. Quello che non torna del pacchetto è lo stipendio, 500 euro al mese. Fa due conti poi Francesca nel prosieguo di questo articolo che trovate sull'Espresso e dice tra l'affitto e le spese, appunto, vive per mangiare, in realtà potrei non starci con questa cifra, eppure molti altri colleghi hanno festeggiato quando sono riusciti a passare la selezione. Molto seria la denuncia dell'OCSE, che nel suo studio riferito al 2009 segnala che un italiano laureato non raggiunge l'80% della busta paga media che viene invece assegnata nei paesi OCSE, sono i paesi appunto più industrializzati dei quali l'Italia fa parte. I ricercatori italiani guadagnano meno della metà di tedeschi e francesi, i cervelli nostrani con 4 anni di esperienza prendono 12.000 euro l'anno lordi contro i 30.000 dei parigini, i 24.000 di un berlinese. E qui non poteva mancare la citazione, forse anche a voi sarà venuta in mente, a voi che ci state ascoltando, la citazione che ha fatto il governatore di Banca d'Italia Mario Draghi proprio in questa settimana, ha lanciato l'allarme e ha indicato nei giovani le principali vittime di questa crisi economica. Però scrivono amaramente Cerno e Fittipaldi appunto sull'Espresso, l'esercito dei sottopagati non fa davvero statistica, nessuno poi parla di loro nei documenti ufficiali, la beffa è che finiscono per rimpinguare le colonne degli occupati, ma in realtà è gente che ha perso la speranza del posto fisso. E qui si prosegue poi con i dati Istat. Lo stesso tema viene affrontato da Vanity Fair che ha chiesto invece un contributo a Silvia Vallone. Silvia Vallone è una poetessa, una giovane poetessa, è nata nel 1984, ha già pubblicato dei libri, ha vinto anche dei premi e descrive appunto questo stato difficile dei giovani italiani che cercano lavoro con un contributo che è stato intitolato Noi della quarta B, che classe promettente, ora ci chiamano bamboccioni. Come si passa dalla media del 30 a vendere aspirapolvere 8 ore al giorno? Scrive Silvia Vallone, i miei colleghi, racconta appunto dei suoi compagni di classe, vivono ora in 5 in 40 metri quadri, dormono in un soppalco, persone che conoscono perfettamente il sistema operativo Windows e due lingue straniere, non sbagliano i congiuntivi, sanno parecchi articoli della Costituzione più e meglio di chi se ne riempie la bocca in TV. Come deve essere per una persona così, con la media del 30, rispondere 8 ore di fila alle telefonate di sconosciuti, rifilare aspirapolvere alle casalinghe per 3 mesi. Poi si vedrà, tanto dura un contratto di lavoro che non ti permette neppure di firmarne uno d'affitto. Dice, la mia era una classe da film hollywoodiano, c'era anche il genio, il fisico che ha vinto quell'unica borsa di dottorato che le amministrazioni non hanno tagliato, un ragazzo così in gamba che andrà a fare ricerca negli Stati Uniti. E qui si passa al film italiano, scrive la Vallone, Un paese per vecchi, dove i laureati emigrano all'estero e quindi si dà per scontato che lo facciano e va bene così. Sono più di 2 milioni, riporta sempre la Vallone, secondo l'Istat, i giovani italiani tra 15 e 29 anni che non lavorano e non studiano. È un primato in Europa. Adesso ci chiamano bamboccioni, noi che eravamo una classe promettente. Questo direi in perfetta sintonia con quanto dichiarato anche dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi proprio nei giorni scorsi. Con questa segnalazione devo dire davvero non ottimista, ma questa è anche la realtà che descrivono i magazine in questa settimana. Il Tempo questa mattina si è concluso, io vi do appuntamento domani mattina alla stessa ora per una nuova puntata di Magazine 24. Grazie molto a Carmelo Lauricella questa mattina in regia, grazie come sempre a Margherita Aina e Vittoria Mussini che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo, se volete risentire questa puntata così come tutti gli altri programmi di Radio 24, il nostro sito www.radio24.it. A domani.